falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Per ogni attore che si rispetti, il punto di arrivo di una carriera è la vittoria di un Oscar, e ovviamente uno su mille ce la fa, cioè quasi nessuno ci riesce, solo i più grandi. Bene, c'è una famiglia che di Oscar ne ha vinti tre, con tre persone diverse, quindi siamo veramente nel campo delle probabilità infinitesimali. È un passaporto con tutti i visti in regola per il successo. Will you announce the winner, Mrs. Perkins? Gigi, Vincent Minnelli. For the outstanding performance by a juvenile actress during the past year, Miss Judy Garland. Liz? Hope they haven't got a cause. Liza Minnelli. Padre, madre e figlia. E oggi parliamo della figlia, Liza Minnelli, grande interprete del cinema, del teatro, cantante, attrice, showgirl, che non ha vinto solo un Oscar nella sua vita, ma anche tre Tony Awards, che è l'Oscar del teatro, tre Golden Globes. Lei nasce con una famiglia molto ingombrante alle spalle, perché è figlia della grande cantante e attrice Judy Garland, quella del Mago di Oz, per intenderci. È una delle più grandi performer del secolo passato, e poi è figlia di Vincent Minnelli, grande regista di musical, che ha diretto Un Americano a Parigi con Gene Kelly, Gigi con Leslie Caron. Quindi, come vedete, lei è un tipo un po' speciale. D'altra parte, quanti possono farsi accompagnare nella cerimonia degli Oscar dal padre che a sua volta lo aveva già vinto? Eppure l'entusiasmo di Vincent Minnelli per la vittoria della figlia è assordante, come quello di qualsiasi altro padre. Liza Minnelli. Quando dissero Liza Minnelli, mio padre gridò così forte nelle mie orecchie che da allora soffro di un disturbo, l'acufene. Sì, ce l'ho ancora. Quando senti il ronzio nelle orecchie. It's ringing in the ear. L'Oscar di Liza è meritatissimo. Siamo nel 72 e il film è Cabaret, il ruolo è quello di Sally Bowles. Sarebbe una serata perfetta se non mancasse la madre, Judy Garland, morta tre anni prima per una overdose di medicinali. Nonostante due genitori famosi e difficili, l'infanzia di Liza è comunque un'infanzia molto felice, anche se ovviamente è piuttosto diversa dall'infanzia di una americana media. Well, it was my playground. La metro è stata il mio parco giochi. Come la maggior parte dei ragazzini che vanno a scuola e poi ogni tanto vanno al parco, io invece andavo alla metro Goldwyn Mayer. Conoscevo il posto centimetro dopo centimetro. Sapevo dove fosse il reparto costumi, dove costruivano le cose, il reparto trucco. Conoscevo tutti. Mi sedevo sulle ginocchia di mio padre o gli stavo intorno. Mi sapevo muovere in mezzo ai set come tutti gli altri figli di Hollywood. Set like so many kids in Hollywood. Coming round the corner with the bikers at the front. I'm wiping the sweat from my eyes. It's a matter of time, a matter of will. And the governor's car is not far behind. He's not the one I've got in mind. There is a man in the hour. Così il debutto di Liza viene quando non ha ancora tre anni, in un film diretto dal padre, interpretato dalla madre, insieme all'attore Van Johnson, I fidanzati sconosciuti. E nella scena finale Liza interpreta la figlia della coppia. Chiaramente non si ricorda molto di quel film, tranne la mano fredda di Van Johnson sul suo sederino nudo, perché nonostante l'avessero agghindata alla perfezione con nastri e fiocchi, le costumiste si dimenticarono di metterle le mutandine. così, insomma, una partenza da figlia d'arte con tutti i geni della famiglia che in qualche modo la sta instradando verso una carriera gloriosa. Però i genitori non stanno andando molto d'accordo, divorziano poco dopo, non ci saranno altre occasioni di girare assieme al padre e alla madre assieme, e lei viene affidata alla madre, che si risposa subito con Sidney Luft, che è un altro produttore cinematografico. A 6 anni Liza si ritrova con una nuova sorellina, Lorna Luft, dopo 2 anni è con un fratello, Joey. Insomma, finisce per ricoprire un po' il ruolo di babysitter dei nuovi arrivati, e questo cementa un affetto che è ancora molto forte tra i tre fratelli, forse anche grazie alla capacità di Judy Garland di far sentire ognuno dei suoi figli amato allo stesso modo degli altri. I know how my mom felt. So quello che sentiva mia madre. So che quando guardava me, mio fratello e mia sorella, diceva che noi tre eravamo la prova che era stata una brava donna. E tutto sommato Judy Garland è una buona madre, una madre presente, aiuta la figlia a credere nei suoi progetti, però è una madre dipendente dall'alcol, dai medicinali, e muore a soli 47 anni per una vita non regolarissima, insomma. E lei riesce a instaurare un rapporto molto forte, Liza, con entrambi i genitori. In un'intervista al New York Times dichiarò: da mia madre ho preso la grinta, da mio padre i sogni. L'amore non nasce subito, l'amore per la recitazione. I set cinematografici le sembrano noiosissimi con tutti i tempi morti che ci sono. Non ci pensa a fare l'attrice fino a quando non si innamora di uno spettacolo che va a vedere con la madre a Broadway, il musical Bye Bye Birdie. È una rivelazione, perché il teatro ha tutto un altro passo. Liza decide che vuole essere un'attrice di teatro. Dopo qualche iniziale perplessità, i genitori acconsentono, anche perché nel frattempo lei ha cambiato 14 scuole, insomma non è proprio un'alunna modello. Il trasferimento a New York per seguire i corsi di recitazione può rivelarsi una soluzione migliore, almeno temporaneamente. Quando arrivai a New York ero una di quelle ragazze che ce la vogliono fare da sola. Avevo 16 anni e non volevo prendere soldi dai miei genitori. Così ho fatto un sacco di lavori, tipo la cameriera, e ho anche fatto andare l'ascensore in un hotel pieno di gente vecchia, persone che ho contribuito a far stare peggio perché non riuscivo mai a beccare il piano giusto. Così a 16 anni Liza lascia il suo comfort della vita hollywoodiana e si lancia nel caos della Big Apple, della grande mela di New York. La città è così diversa da quello che ha conosciuto fino ad ora che ogni cosa le sembra bellissima, anche se naturalmente non è tutto rosa e fiori. Però si sa, la vita, per citare proprio lei, è un cabaret, c'è solo da vedere come andrà avanti lo spettacolo. Parlando di Liza Minnelli, l'intensa Sally Bowles del film Cabaret, ma tanto altro, la grande attrice di teatro, interprete di canzoni famosissime come New York, New York, il cui successo ha condiviso con la versione di Frank Sinatra. Tutto questo nonostante o grazie a, stiamo cercando di capirlo, due genitori famosi come Judy Garland e Vincent Minnelli, padre e madre. Per provare a trovare la sua strada, intanto Liza si trasferisce a 4.000 chilometri dalla famiglia, cioè da Los Angeles va a New York. So I stayed in the Barbizon Hotel for Women. Vivevo all'hotel per ragazze Barbizon e facevo qualsiasi lavoro e adoravo la vita di teatro. Andavo a scuola di recitazione, a scuola di ballo, ogni cosa pur di imparare. Volevo imparare. Partecipavo agli spettacoli estivi, spostavo le scenografie. Ho iniziato dalla base e non ho mai preso un dollaro dai miei genitori. Volevo che fossero orgogliosi di me. Allora, ragazzotte che fate i concorsi, torroniste, ragazzine dei talent, imparate. Allora, andavo a scuola di recitazione, a scuola di ballo e facevo ogni cosa pur di imparare. Questa io me la segnerei. Ho iniziato dalla base, mi segnerei anche questa. Intanto Judy Garland, la madre di Liza, sta avendo un grandissimo successo in televisione col suo Judy Garland Show, però continua a occuparsi con discrezione da lontano del futuro di una figlia che non vuole essere aiutata, vuole farcela con le sue gambe. E però intanto lei ci tiene che l'esperienza di Liza a New York dia i risultati migliori, insomma l'aiuta con discrezione. Then she sent me to Uta Hagen. Mia madre mi ha mandato a New York da Uta Hagen, che era un insegnante molto brillante, perché pensava che se proprio dovevo provare a recitare, voleva che fosse nel modo migliore. Anche se continuava a chiedermi: sei sicura che vuoi proprio fare questo? E intanto Liza prova anche a cantare. A 17 anni ha una piccola particina in un musical che va in scena off-Broadway, che è un po' la palestra per i grandi musical. Si chiama Best Foot Forward. Può darsi che abbia avuto la parte anche grazie al suo cognome, ma intanto sa farsi notare. Sul Washington Post esce una critica che ne riconosce le capacità. Nel frattempo è in atto il divorzio della madre da Sid Luft, quindi un altro matrimonio fallito, e la Garland propone a Liza di cantare assieme per un grande concerto che si terrà al teatro London Palladium nel novembre del 64. Liza ha solo 18 anni, ha davanti a sé la prima grande possibilità di dimostrare quello che veramente è sul palcoscenico di uno dei teatri più importanti del Regno Unito e di conseguenza del mondo. È un'occasione che non va sprecata. Well, halfway through it changed. Durante lo spettacolo ci fu un vero e proprio cambiamento. Quando iniziammo era come se ci fossi io sul palcoscenico insieme alla mia mamma, e lei era carina con me e io ero carina con lei, e insieme ci divertivamo un sacco. Sapevo che era molto nervosa, era la prima volta che si esibiva da molto tempo, e io ero lì proprio per questo, per darle una mano. Ma improvvisamente fu come se tutto cambiasse, un pensiero mi attraversò la mente: sono su un palcoscenico con Judy Garland. I'm on stage with Judy Garland. I can't be happy, that's great. I can't be sad. I can't be good. Oh, I can't be bad. It all depends on you. I can be humble. I can be proud. I can be lonely out in the crowd. It all depends on you. Well, and I kept it. Da quel punto in avanti ho continuato con quella carica. Anzi, è stata lei a darmi quella carica. E da allora non ho mai più avuto paura di stare sul palcoscenico. Insomma, al London Palladium lei scopre di non essere solo la figlia di Judy Garland, non più, è una vera showgirl che riesce a ritagliarsi uno spazio tutto suo e comincia a essere riconosciuto questo spazio sia dalla critica che dal pubblico, e non la ferma più nessuno da quel momento. Pensate che ha solo 19 anni e vince il suo primo Tony Awards per il musical Flora The Red Menace. È la più giovane attrice a conquistare questo premio a Broadway dopo il Tony, e lei si imbarca nel suo primo tour. È un'esperienza che le permette di farsi le ossa e mostrare la sua infinita energia sul palcoscenico. Per tanto tempo la gente mi ha chiesto dove trovassi l'energia, e mi viene da ridere se penso invece alla paura che ho. Ma quando sei davanti a migliaia di persone, devi fare qualcosa invece di stare lì ferma come un sasso. E quindi credo che, anche se all'inizio sono molto spaventata, c'è poi un momento in cui faccio il primo passo. E poi è tutta una questione di concentrazione. Beh, a questo punto il cinema è quasi uno sbocco naturale. Dopo una particina in un film con Albert Finney e Charlie Bubbles nel 68, le arriva la proposta di un regista che si chiama Alan Pakula. Le chiedono di interpretare la parte di una ragazza un po' matta e eccentrica che si chiama Pookie Adams. Pookie mi ricordava la ragazza che ero e anche tante altre ragazze che ho conosciuto a scuola. Credo che in un momento della propria vita ognuno di noi è un po' Pookie. E inaspettatamente Pookie diventa un successo al botteghino. Per questa interpretazione Liza Minnelli si guadagna la sua prima nomination all'Oscar. È l'inizio di una carriera sfolgorante. Falco e il Gabbiano. Stiamo raccontando e direi celebrando Liza Minnelli, donna straordinaria dai molti talenti, è un'attrice da Oscar, una cantante, una performer, ha avuto momenti di grande difficoltà, però è riuscita a costruirsi una fama che resiste da 50 anni, che l'ha trasformata da semplice attrice a una vera e propria icona. Icona gay, ma non solo. Come ha detto anche lei più volte, l'hanno aiutata la grinta presa dalla madre, che è l'attrice Judy Garland, e invece la capacità di sognare anche l'impossibile ereditata dal padre, che è il grande Vincent Minnelli, il regista. È proprio il padre che, quando Liza viene chiamata a recitare in Pookie da bravo regista, le dà un consiglio che l'accompagnerà per tutta la vita. I said, Daddy, what is acting? Chiesi a mio padre cosa significasse recitare e lui mi rispose, non lo so. Poi però quella sera, quando venne a salutarmi in camera, mi disse, ho pensato alla tua domanda e secondo me recitare significa ascoltare qualcosa come fosse per la prima volta e dire qualcosa come fosse per la prima volta. And saying something for the first time. Beh, insomma, non è male avere un padre che ti spara sta frase così, che quelle che ti ricorderai tutta la vita. Tutti quelli che sono padri hanno questa ambizione, ogni tanto dire la frase storica così rimane. Insomma, comunque, dopo l'ottimo debutto sul grande schermo con Pookie, lei viene chiamata anche da Otto Preminger per un film che sulla carta ha le stesse chance di Pookie di vincere qualche premio, però nella realtà non va benissimo. Si chiama Dimmi che mi ami, Juni Moon. Tra l'altro, durante le riprese arriva una telefonata da Londra che porta con sé una notizia orribile, perché a soli 47 anni Judy Garland viene trovata morta per un'overdose accidentale di barbiturici, è inciampata definitivamente di nuovo in una delle sue debolezze. Liza è distrutta, riesce comunque in qualche modo a fare fronte ai suoi impegni. Tutti esprimevano il loro dolore al posto mio, capisci? Nessuno che mi chiedesse mai, e non mi sto lamentando perché lo capisco benissimo, stai bene? A parte la mia famiglia o gli amici più stretti. Ma per la maggior parte, la gente era così sconvolta che non mi lasciava lo spazio per essere sconvolta anch'io. Insomma, è un momento no. L'insuccesso del film di Preminger, la morte della madre. Lei smette di fare cinema e, come la madre, passa alla televisione. Ottiene dalla NBC il suo primo show intitolato semplicemente Liza Minnelli. È uno show che va molto bene, però il cinema la rivuole. Così nel 71 conquista, si può proprio dire, la parte di Sally Bowles nel nuovo film diretto dal coreografo Bob Fosse. Il film si chiama Cabaret e il personaggio è tratto da un racconto contenuto in una raccolta del grande autore inglese Christopher Isherwood. Addio a Berlino si chiama il racconto. Sally è esistita veramente, era un'amica inglese di Isherwood, si chiamava Jan Ross, che visse a Berlino esibendosi come cantante in un locale tra la fine degli anni 20 e l'inizio degli anni 30. Quindi una donna complicata in un periodo periodo complicato e una donna che Isherwood definiva divinamente decadente. Per me fu una parte difficile da fare. Era un personaggio strano, estroverso, esibizionista. Bob Fosse ha dovuto fare un grosso lavoro con me, perché non mi sentivo a mio agio a farlo. Non lo sentivo. A poco approfondimmo il personaggio. Mi disse cosa fare con il corpo. E quando alla fine riuscii a visualizzare cosa fare con quel personaggio, chi fosse davvero il personaggio, tutto diventò più facile. Beh, è difficile pensare che Liza all'inizio abbia avuto delle difficoltà, perché è un ruolo che le calza a pennello. Comunque questo traspare anche per quel misto di grinta, di vulnerabilità che l'ha sempre caratterizzata. È un mix che ha dato uno spessore indimenticabile a quel personaggio. Tra l'altro c'era anche il famoso caschetto di capelli neri con la frangetta a punta, che era frutto di un lungo studio sul personaggio fatto da Liza Minnelli, aiutata in questo caso dal sempre provvidenziale padre Vincent. Un giorno andai in un negozio di trucchi e c'era questa bellissima donna che indossava delle ciglia lunghissime. Io pensai: ecco cosa andrebbe bene per Sally, perché doveva risultare una donna speciale, non cercava di essere bella. Poi, visto che eravamo negli anni 30, avevo in mente Marlene Dietrich. Così andai da mio padre e gli chiesi: secondo te mi devo ossigenare i capelli e togliere le sopracciglia? E lui mi rispose: no, no, tesoro. E mi diede questo libro con Louise Brooks e Theda Bera. E allora andai da Bob Fosse, ci divertivamo molto in quel periodo perché ogni tanto io arrivavo e gli proponevo delle cose, e gli dissi: che ne pensi? E gli feci vedere che mi ero tinta i capelli di nero e li avevo tagliati con la punta sulla fronte. E lui disse: è perfetto! It's great! Farewell, my liebe Herr. It was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me, mine hair. Don't dab your eye, mine hair, or wonder why, mine hair. I've always said that I was a rover. You mustn't knit your brow, you should have known by now. You've every cause to doubt me, mine hair. Cabaret è un successo incredibile. Liza Minnelli conquista l'Oscar e anche il Golden Globe grazie a un nuovo show televisivo intitolato Liza with a Z. Nello stesso vince anche un Emmy, entrando a far parte di quella esigua schiera di artisti americani che possono vantare di aver vinto quella che viene definita la tripla corona dello spettacolo, diciamo il triplete. Da questo momento Liza Minnelli è considerata definitivamente una diva, una grande artista di livello internazionale. Se il successo nella sua vita pubblica è innegabile, purtroppo, come spesso accade, non si può dire altrettanto della sua vita privata. Eh sì, perché prima dei 30 anni Liza Minnelli è già divorziata dal primo marito, Peter Allen. Era un protetto di Judy Garland, soprattutto dell'ultimo marito dell'attrice, Mark Harron, che a parte la Garland ebbe sempre relazioni con uomini. Qualche anno dopo il divorzio, infatti, anche Allen fece coming out come gay nel 92, è morto di AIDS a soli 48 anni. Del resto, sia Liza Minnelli che sua madre sono sempre state due grandi icone del mondo gay. Non a caso, al concerto in memoria di Freddie Mercury, Liza Minnelli ha avuto l'onore di chiudere il concerto a cui hanno partecipato tutti i grandi del mondo cantando canzoni dei Queen, e lei chiude con una bellissima We Are the Champions, circondata da tutti gli altri cantanti che hanno partecipato. Eravamo a Wembley, credo fosse il 92. Comunque, è in questi anni che Liza sviluppa una dipendenza dall'alcol, dalla droga, dalle medicine. È un percorso, ahimè, parallelo a quello della madre. Perfino Andy Warhol ricorda nei suoi diari quando Liza arrivava al party chiedendo che le venisse dato ogni genere di droga, e anche con le medicine non va molto meglio. Tutte le medicine che ti prescrivono sono la stessa cosa. Sono insidiose, non sai bene cosa stiano facendo. All'inizio sembra che facciano quello che devono fare, ed è per questo che il dottore te le prescrive. Agiscono tutte insieme, così tu ti senti molto sostenuta e più calma. Ma poi, se non smetti di prenderle, possono farti male, e alla fine diventano tossiche. Ma l'intero processo è talmente lento che non te ne accorgi. È una piaga decisamente americana, un popolo dove se fumi una sigaretta sembra che tu abbia dato fuoco al mondo e poi si massacrano di medicine antidepressivi, alcolici, poi magari nel frattempo si comprano anche qualche mitra e vanno a sparare in una scuola. Comunque, torniamo a lei. Senza marito si consola portando con grande successo i suoi show in giro per il mondo, e intanto il cinema invece non va sempre bene. Per esempio Lucky Lady, che è un film in cui recita con Burt Reynolds e Gene Hackman, viene accolto malissimo dalla critica. Succede una cosa strana quando sei un artista o sei qualcuno che riceve delle recensioni. Tu leggi se è andata bene, leggi se piace, e poi fai un'altra cosa e leggi cosa ne dicono, e poi ne fai un'altra e leggi ancora. E dopo un po' inizi a fondare la tua autostima sull'attesa di vedere cosa dicono gli altri di quello che fai. E così inizi a pensare che stiano parlando di te, e invece no, stanno solo parlando del tuo personaggio. Eh sì, fondare l'autostima sull'attesa di vedere cosa dicono gli altri di quello che fai è una delle grandi insidie di chi fa un mestiere artistico. Insomma, l'ideale è, quando esce un disco, per esempio, è evitare di leggerne le recensioni, per quanto mi riguarda. Comunque, arriva un altro film, si chiama New York, New York, è il film del 77 di Martin Scorsese. C'è un Robert De Niro, celeberrimo il fatto che abbia iniziato a studiare il sassofono per poter partecipare e recitare in quel film, classica cosa alla De Niro. Lei canta in modo eccezionale una canzone che diventerà famosissima, New York, New York. It came out at a funny time. Uscì in un momento bizzarro. Erano appena usciti Il Padrino e Io e Annie, che era una storia d'amore. E quindi il nostro film era un po' fuori categoria e la gente non capiva bene che genere fosse. E invece era un cult, un film che parlava di musicisti senza essere un vero e proprio musical. Un cult un po' musical, un po' altro, che non viene accolto benissimo dalla critica, eppure invece è un film che, come dire, è rimasto nella storia del cinema. Però nel frattempo lei si consola col teatro, perché lì Liza Minnelli sembra dare il meglio di se stesso, tant'è vero che nello stesso anno, con lo spettacolo The Act, vince il suo terzo Tony Award e subito dopo riempie la mitica Carnegie Hall con un numero di spettatori record per quel teatro. E intanto siamo arrivati al secondo marito, Jack Haley Jr., figlio del più famoso Jack Haley Sr., che era l'interprete dell'uomo di latta, del mago di Oz. Come vedete, e si va sempre a finire nell'orticello di casa Garland Minnelli, e non si sa se è una sindrome o una maledizione. E anche Haley dura poco, 5 anni, così lei è di nuovo da sola e il cinema torna a darle delle soddisfazioni, perché nell'81 la troviamo al fianco di Dudley Moore nel grande successo di Arthur. È la storia di un miliardario alcolizzato che si innamora di una cameriera che non può avere figli, ed è una storia non molto lontana dalla realtà. Quando ti avvicini a un nuovo personaggio, cerchi in lui qualcosa che ti è familiare. E io ho trovato molto divertente che dovessi recitare in una commedia che parlava di alcolismo e infertilità. La vita a volte prende una piega bizzarra. Insomma, alti e bassi, soprattutto dal punto di vista fisico. E qui siamo veramente in basso, perché lei inizia a dimenticare le date dei concerti, comincia a avere delle difficoltà nel calcare le scene. Insomma, si rende conto che è il momento di affrontare seriamente il suo problema. Credo davvero che bisogna riconoscere quando si è nei pasticci e cercare di mettere le cose a posto. E davvero non credo che questo abbia niente a che fare con mia madre. Questa sono io. Se ho un problema, cerco di tirarmene fuori. Ma chissà se veramente non c'era niente a che fare con la madre. Comunque, la soluzione di tutti i pasticci si chiama Betty Ford Center. È una famosissima clinica di disintossicazione fondata dalla ex First Lady, la moglie del presidente Gerald Ford. È un luogo per VIP, magari un po' annoiati, vittime delle loro sindromi e delle loro sostanze psicotrope. Lei trascorre una buona parte dell'84 in quella clinica. Quando ne esce è pulita dalle droghe, ma sa che per quanto riguarda l'alcolismo la sua battaglia durerà per sempre. Negli ultimi anni hanno scoperto che esiste un vero e proprio gene dell'alcolismo. Quindi tutta la gente che dice che si tratta di una debolezza, di mancanza di volontà. Ma come? Io ho vinto 3 Tony Awards, un Oscar e 3 Golden Globes e vi sembro una senza volontà? No, questa è una malattia. E prima lo capiscono tutti e meglio è. Ma è una malattia con la quale devi convivere perché puoi avere quotidiane ricadute. Quindi devi farti sostenere dall'affetto degli altri. Dovete guardarvi negli occhi e dirvi come va oggi. Perché si va avanti un giorno alla volta. Potresti ricaderci ogni giorno. Devo dire che la sua vita privata non l'aiuta molto, perché per esempio tra i suoi errori c'è quello di continuare a scegliere mariti sbagliati. Le capita altre 2 volte. La prima con lo scultore Mark Gero, con il quale tenta disperatamente di avere un figlio. 3 aborti spontanei e la coppia abbandona l'impresa e poco dopo si dividono. E un altro tentativo lo fa con David Guest, che è un promotore di concerti, con il quale dopo appena un anno il matrimonio finisce a botte, anche se il divorzio verrà finalizzato qualche tempo dopo. Il matrimonio passa alla storia anche come la cerimonia dei lifting, grazie a Michael Jackson, ormai definitivamente trasformato in una signora bianca, e a Elizabeth Taylor, anche lei tirata un po' ovunque. Dagli anni 90 in poi la carriera di Liza Minnelli si stabilizza. È una routine che comprende teatro, concerti e pochissimo cinema. È recentemente recitato solo per la famosa serie TV americana Arrested Development. Però i suoi concerti continuano a fare sold out, il che dimostra che lei ha ancora una fascia solidissima di ammiratori. È venuta anche in Italia non poche volte, giusto così, perché con quella voce, con quell'energia, lei ha conquistato intere generazioni, forse perché nessuno come lei ha saputo comprendere quanto una bella canzone abbia il potere di farti stare meglio. Mi è sempre sembrato che per quanto fosse complicato crescere, potevo sempre trovare una canzone che poteva spiegarmi come mi stavo sentendo e che mi facesse sentire meglio, che spiegava le mie sensazioni meglio di quanto potessi fare io. E così, tra colpi d'ala, premi, fantasmi che riaffiorano, prosegue la gloriosa ma anche complessa e complicata vita di Liza Minnelli, una donna che ha saputo volare in alto ma ha saputo anche combattere con la sua tendenza inconscia a precipitare verso il basso. Ognuno di noi può rischiare di cadere, però può anche dare un colpo d'ala che lo porta a volare in alto. Se volete mandarci dei commenti o segnalarci delle storie che auspicate che noi si possa trattare, fatelo scrivendo al falcoelgabbiano@radio24.it o visitate la pagina radio24.it, oppure venite sui nostri social e anche sui miei, perché se volete, lo sapete, mi trovate. Ciao, a domani. These vagabond shoes are longing to stray and step around the heart of it, New York, New York. I wanna wake up in the city that doesn't sleep, to find I'm a king of the hill, ha, top of the heap. Il falco e il gabbiano. Un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Filiasi.